Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau Chi visage. Può dirsi oggi un intellettuale? È un termine che era già usurato da parecchi decenni, ma in particolare nella fase che stiamo vivendo, la contemporaneità, il ruolo, la figura, lo spessore, la definizione, la percezione generale della figura dell'intellettuale è molto frastagliata. Esiste nel nostro paese in questo momento qualcuno che possa dirsi un intellettuale al di sopra delle parti, delle visioni particolari, parcellizzate, transeunti della vita, che abbia uno sguardo profondo, attento, ma libero da ogni vincolo che può venire dall'opportunismo, la necessità comunque di essere proclamato, pubblicato, seguito, visualizzato? Sì, perché oggi l'intellettuale è fortemente legato alla percezione che ne danno i mezzi di comunicazione, soprattutto la televisione. È intellettuale chi è molto visto. È intellettuale che ha molta fortuna di essere citato, è intellettuale non tanto, anche sì e soprattutto, chi pubblica tanti libri, chi ha un grande legame profondo e vivo e vivace con chi lo segue, chi lo sostiene, chi fa sue le sue idee, chi gestisce e approfondisce le sue intuizioni, ma anche da quanto spazio abbia nei palinsesti televisivi. Se oggi in questo momento uno dovesse pensare a un intellettuale come tale percepito e sentito, dovrebbe dire Roberto Saviano. Roberto Saviano ha pubblicato un libro, è diventato un personaggio, ha una storia personale molto particolare, molto emotivamente diversa dalle storie di tanti intellettuali del nostro paese, ultimamente poi è al centro di una grandissima e singolare esposizione televisiva, che è il programma Vieni via con me, leggo oggi su Repubblica un suo punto su questo programma televisivo, sulla televisione e via dicendo. La televisione ha fortemente condizionato anche la percezione generale dell'intellettuale. Intellettuale è colui che a un certo punto la televisione, con un triplo, quadruplo, quintuplice sesto, salto mortale al suo interno, stabilisce come trionfatore di una sua area di dissenso. Di dissenso fortemente seguito, con grandissimi numeri, mai nella storia della televisione italiana un programma ha avuto tanto successo. Ma avrebbe avuto questo programma successo se non fosse un momento particolare in cui si è creata un'area in cui esiste la percezione, è stata data la percezione, è stata costruita a seconda dei punti di vista, con un sapiente e intenso gioco di autoreferenzialità, una collocazione tale per cui quello è il luogo dell'intellettuale? Beh, a queste tante domande vorrei rispondere questa mattina, ma semplicemente ponendo un esempio di un personaggio del passato più o meno recente del nostro paese, a cui indubbiamente nessuno potrà mai togliere la qualifica, la nomina di essere stato un intellettuale. Un intellettuale scomodo per tutti, un intellettuale talmente e fortemente e giustamente nel ruolo intellettuale che da una parte, secondo le epoche storiche, secondo i momenti, secondo i punti di vista, secondo di come soffiava il vento, si è fatta gara nel denigrarlo, e in altri tempi si è fatta gara di accaparrarsene comunque la paternità, prendersene pezzetti. Costui è Pierpaolo Pasolini. Molti lo citano, tantissimi, capita che lo citano oggi a destra, lo citano a sinistra, lo citano al centro, lo citano come esempio da seguire, lo citano come dilemma, lo citano come totale irritualità e diversità e stranezza e singolarità nella storia degli intellettuali del nostro paese. Questa mattina vorrei parlare di Pasolini proprio perché è recentemente uscito un libro, ne escono tanti libri su di lui, quest'ultimo è particolare, edito da Vallecchi, Una lunga incomprensione, Pasolini tra destra e sinistra, scritto da Alberto Baldoni e Gianni Borgna. due persone con due punti di vista che hanno nuovamente ripreso l'analisi di questo intellettuale, e ognuno dice la loro. Ma prima ancora di parlare con gli autori, di dare possibilità ad aprire la discussione su Pasolini, vorrei farvi sentire, con un attimo di tempo radiofonico a disposizione, quello che scrisse Pasolini il 16 giugno del 68, anzi all'indomani il 16 giugno del 68, che fu il famoso episodio dei disordini di Valle Giulia, episodio che oggi viene rievocato, ripensato, rimmaginato. Le piazze d'Italia pullulano di una nuova rivolta studentesca. Anche se sono passati quasi 40 anni da quel giorno, sembra che la novità, il fermento, il fremito passi per le piazze d'Italia attraverso gli stessi stili, gli stessi slogan, le stesse ritualità, addirittura gli stessi luoghi geografici in cui allora si svolse quella che sembrava la prima grande, meravigliosa, fantastica fiammata di novità. Pasolini si creò un grande muro di dissenso proprio per aver scritto questo. È triste. La polemica contro il PCI andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, figli, e non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati. Adesso i giornalisti di tutto il mondo, compresi quelli delle televisioni, vi leccano, come credo ancora si dica nel linguaggio delle università, il culo. Io no, amici. Avete facce di figli di papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete paurosi, incerti, disperati. Benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori e sicuri. Prerogative piccolo borghesi, amici. Pensate un attimo se qualcuno oggi avesse scritto su un giornale, non un giornale di dissenso rispetto appunto a quelle che sono le linee portanti della protesta degli studenti nelle piazze, qualcosa del genere. Sarebbe stato comunque tacciato, a meno che non l'avesse scritto su Libero, sul giornale e su pochi altri organi di stampa, come un reazionario, come un sostenitore comunque della linea governativa. È possibile avere un pensiero leggero? Un pensiero sostenuto soltanto dall'intuizione, dall'osservazione, privo di ogni pregiudizio, attento sulla realtà, senza necessariamente essere oggi classificato 8-0024-0024. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri, vengono da periferie, contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi, le preziose 1000 lire. Il padre è rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria, che non dà autorità. La madre incallita come un facchino o tenera, per qualche malattia, come un uccellino. I tanti fratelli, la casupola tra gli orti con la salvia rossa, i terreni altrui lottizzati, i bassi sulle cloache o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera. Forse qui fu il punto del massimo dissenso, del massimo disprezzo che si beccò Pasolini. Osò contrapporre il truce, il turpe poliziotto, il celerino, colui che sta lì con il manganello a difendere la reazione, il potere costituito, rispetto all'intellettuale, allo studente che sta dall'altra parte. Ricordiamo che la mattina c'era anche Giuliano Ferrara lì a Valle Giulia, ma c'erano tante altre persone che oggi rappresentano un pensiero totalmente antitetico a quello che allora volevano rappresentare. Fu profetico Pasolini o è il graffio e il colpo d'ala dell'intellettuale che gli permette di vedere le cose che gli altri non vedono, perché in parte ottenebrati o vincolati dalla necessità comunque di rappresentare un'ideologia? 80024 0024. E poi guardateli come li vestono, come pagliacci, con quella stoffa ruvida che puzza di rancio, fureria e popolo. Peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono ridotti per una quarantina di 1000 lire al mese, senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi, in un'esclusione che non ha eguali, umiliati dalla perdita della quantità di uomini per quella di poliziotti. L'essere odiati fa odiare. Hanno 20 anni, la vostra età, cari e care. Siamo ovviamente d'accordo contro l'istituzione della polizia, ma prendetevela contro la magistratura e vedrete. I ragazzi poliziotti che voi per sacro teppismo di eletta tradizione risorgimentale, di figli di papà, avete bastonato. Appartengono all'altra classe sociale. A Valle Giulia, ieri, si è così avuto un frammento di lotta di classe. E voi, amici, benché dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri. Bella vittoria, dunque, la vostra. In questi casi, ai poliziotti si danno i fiori, amici. Pierpaolo Pasolini, 16 giugno 1968. Gianni Borgna, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno anche ad Alberto Baldoni. Buongiorno. Vi ho citato all'inizio di trasmissione, avete scritto una lunga incomprensione, un libro fatto a quattro mani, con due punti di vista sulla figura di Pasolini, edito appunto da Vallecchi. Vi ho fatto sentire, ma la conoscerete senz'altro meglio di noi, forse meglio anche di molti nostri ascoltatori, il famoso proclama di Pasolini che tanto gli causò allora dissenso e quanto oggi in realtà potrebbe provocargli una sorta di riflessione diversa, ulteriore rispetto a quello che leggiamo anche semplicemente nei giornali stamattina. Gianni Borgna è un saggista, un docente universitario, è stato assessore alla cultura di Roma tra il 93 e il 2006. Ecco, che impressione ti fa questa mattina risentire, dopo aver letto il giornale, quello che aveva scritto Pasolini? Ma intanto vorrei ricordare che nel libro noi riportiamo questa poesia integralmente e anche polemicamente, perché anche oggi del resto, ma per ragioni di forza maggiore, è stato letto un lacerto, un frammento di questa poesia che è molto più lunga ed è stata anch'essa incompresa, forse volutamente incompresa sin dall'inizio. Perché... E tu come la vedi? No, poi vorrei dire questo, io ero a Valle Giulia, ero tra quelli che quel giorno era a Valle Giulia, ero uno studente, avevo 20 anni, e però io già allora non fui per nulla contrario alla poesia di Pasolini. La poesia di Pasolini non dice in verità che i poliziotti avessero ragione, anzi dice appunto che i poliziotti avevano torto. Dice però un'altra cosa, infatti il titolo è Il PC ai giovani. Dice che gli studenti, figli di borghesi, se vogliono veramente, o se volevano allora, perché tutto è cambiato nel frattempo, in qualche modo essere rivoluzionari, si dovevano collegare con le forze del movimento operaio, col Partito Comunista, perché altrimenti sarebbero rimasti soltanto dei borghesi che facevano una guerra interna alla borghesia, cioè alla loro stessa classe. Quindi era una lettura molto legata, diciamo, a una contingenza politica? Beh, alla contingenza politica, è legata naturalmente alla situazione politica, certo, perché qualunque poesia del resto, soprattutto se è poesia civile, è legata a una situazione politica precisa, e quella era una situazione molto particolare. Del resto Pasolini, come raccontiamo nel libro, lo fa anche Baldoni, oltre me, diciamo da punti di vista diversi, ma confluenti alla fine, era stato negli Stati Uniti e lui aveva visto lì una diversa nuova sinistra, che appunto, perciò lui dice, bisogna dare i fiori ai poliziotti, perché lì invece questa nuova sinistra, in fondo più rivoluzionaria per certi versi, che faceva la lotta contro la guerra in Vietnam, contro le discriminazioni dei neri e per i diritti civili, però lo faceva in modo non violento. Ecco, questa era stata la grande novità della sinistra americana di quel periodo, e Pasolini riprendeva questo discorso, questo sia attuale, che ancora non era trapelata però nei dimostranti di Villa Giulia, ecco, questa visione. Questo è un discorso attuale, perché allora forse inattuale ma oggi attuale, che la lotta deve essere comunque sempre una lotta non violenta, una lotta diciamo anche dura ma non violenta, perché la violenza in fondo non porta più da nessuna parte. Insomma. Sentiamo ad Alberto Baldoni. Se non sbaglio, non ho elementi certi, Borgna vede Pasolini da sinistra e tu lo vedresti da destra. Ma innanzitutto Pasolini va visto non da sinistra, non da destra. Pasolini è un intellettuale che travalica ogni politica, ogni barriera ideologica. Io vorrei soffermarmi su quello che hai detto tu riguardo le attuali contestazioni studentesche. Secondo me non hanno nulla a che fare, non assomigliano affatto al vecchio 68. Il 68 fu un fenomeno planetario che scoppiò negli Stati Uniti, si propagò poi in Europa e in tutto il mondo. Pensiamo che la contestazione studentesca di allora, che era una contestazione culturale inizialmente e poi diventata violenta, specialmente in paesi come l'Italia e la Francia, questa contestazione culturale era contestazione, come ho detto, che ha attraversato tutto il mondo. Noi qui abbiamo oggigiorno una contestazione circoscritta. Abbiamo sempre, io ho letto degli articoli che si fanno al 68, una bestemmia enorme. Allora c'era, non masse, ricordo, era la musica che trainava questa rivolta, non c'erano ovviamente i mezzi televisivi. Beh, oggi c'è il social network, perlomeno, forse negli studenti inglesi un po' più. Però io ricordo che la contestazione di allora in Italia era contro la riforma Gui, adesso è contro la riforma Gelmini. Se il ministro della pubblica istruzione fosse stato Bersani, che abbiamo visto arrampicarsi lì su architettura, probabilmente avrebbero manifestato anche contro Bersani. È un pretesto. Sì, ma io questo volevo dirti, infatti, allora un intellettuale comunque pose una nota critica nel momento di massimo. Ecco, qui siamo. Borgna ha messo, ricordiamoci che Borgna era segretario della Federazione Giovanile Comunista allora, per cui lui viveva proprio all'interno questo dramma enorme di Pasolini, che aveva visto nella poesia, io vedo anche lui, critica molto il Partito Comunista, perché dice praticamente anche il Partito Comunista si è imborghesito. Noi, ha detto bene Borgna, ci sarebbe stata una migliore soluzione dei problemi, perché qui ovviamente gli studenti manifestavano contro che cosa? Contro il sistema, contro il regime, contro la riforma Gui. Allora sarebbe stata molto più efficace se questa lotta fosse collegata anche al movimento operaio, che poi esploderà nell'autunno del 69 con i famosi scioperi, no? del 69, dell'autunno caldo del 69. Quindi era una, lui ha preso la palla al balzo, a mio parere, per criticare proprio l'atteggiamento del Partito Comunista allora. Quindi era una, ha detto bene l'amico Gianni Borgna, una poesia civile. Ecco, noi dobbiamo estrapolare da tutto ciò. Poi allora un'altra riflessione di fondo, che allora era una scuola elitaria. Oggi è una scuola di massa, è differente questo. Io credo che le rivolte di oggi siano pretestuose, noi tanti giornalisti, tanti opinionisti li vedono in maniera provinciale, ecco, in questo sbagliano. Fermiamoci un secondo, sentiamo qualche ascoltatore. Mirko. Sì, buongiorno, vi saluto e vi ringrazio per la possibilità di esprimere il mio pensiero. Innanzitutto volevo dire che condivido il concetto, il pensiero che ha espresso lo scrittore, nel senso che comunque non credo che Pasolini faceva parte più di una parte di sinistra che di destra, era proprio un intellettuale. Come infatti il senso di questa mattina, lo ribadisco, è di stare come Diogene con la lampada a cercarlo l'intellettuale. Pasolini lo prendiamo come pretesto, come osservatore di quell'epoca, osservatore eterodosso, che aveva il coraggio di andare contro quello che era il suo stesso sostegno ideologico, la parte dei suoi amici, dei suoi sostenitori, di quelli che erano come lui, e fece un'operazione di grande intrepidezza intellettuale. Vorremmo capire se oggi qualcuno è capace di fare qualcosa del genere. Il problema, io credo comunque, che sia anche a livello culturale e sociale soprattutto, nel senso che comunque Pasolini ha avuto la materia prima su cui lavorare, quindi una contestazione. Molte volte, guardi, la materia prima sono le palle che uno mette sul proprio pensiero, senza aver pure di essere giudicato. Parte dalla base di quelle, nel senso che uno le deve pure avere. Purtroppo oggigiorno c'è ancora poco da parlare, soprattutto a livello studentesco, a livello scolastico. Io ho avuto un approccio alla conoscenza di Pasolini come scrittore, poeta, nonché regista, molto da autodidatta, quindi la mia coscienza è molto limitata. Ripeto, la sua forza secondo me è stata il dialogo diretto con il popolo, il fatto di scendere in piazza e saper ascoltare le persone. La ringrazio Mirko, dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa, però il fatto che lei ancora ricordi, possa parlare una persona che è morta nel 75, quindi sono passati tanti anni, rispetto al livello di oblio che cala così presto su chi scrive sui giornali, su chi fa opinione in televisione, su chi è lo scrittore del momento, su chi è il poeta e l'intellettuale del momento, mi fa pensare che forse siamo dalla parte giusta. A tra un istante. De vue se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Cosa ci trova di anormale? Perché la televisione è un medium di massa. E il medium di massa non può che mercificarci e alienarci. Noi stiamo discutendo tutti con una grande libertà, senza alcuna inibizione, o no? No, non è vero. Sì, è vero, lei non può dire tutto quello che vuole. No, non posso dire tutto quello che vuole. Lo dica. No, non lo potrei perché sarei accusato di vilipendi, qualcuno di tanti vilipendi è del codice fascista italiano, quindi in realtà non posso dire tutto. E poi, a parte questo, so oggettivamente, di fronte all'ingenuità o la sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Quindi mi autocensuro, ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. 800240024, questa mattina siamo alla ricerca dell'intellettuale residuo. Operazione molto difficile perché partiamo contrapponendo un'epoca passata in cui forse Pierpaolo Pasolini rappresentava questa figura. Questa è un'intervista che gli fece Enzo Biagi nel 72. Pasolini parlava di televisione. Parlava di una televisione che non è quella di oggi, di un altro tipo di televisione, un mezzo di massa, un mezzo popolare. In questo individuò la matrice di necessaria decodifica di ogni complessità della televisione, quindi un mezzo per dare spiegazioni al popolo, non era un mezzo che l'intellettuale potesse frequentare, anche se lui la frequentò in maniera eccelsa, ma forse inconsapevole, e soprattutto un mezzo elitario. La televisione appartiene a pochi, la televisione è qualcosa che censura, la televisione è un luogo in cui non si può dire, non si può parlare. In realtà poi la televisione divenne di tutti, la televisione divenne un paradiso frequentabile da ogni suo utente. La televisione oggi è un luogo, da un punto d'arrivo, è un fine, non è più un mezzo, non è più quello che allora pensava Pasolini. Ma la sua fortuna fu quella di vivere e morire in un'epoca pre-televisiva. Cosa sarebbe stato oggi Pasolini se fosse stato vivo? Avrebbe fatto lui il programma assieme a Fabio Fazio, o avrebbe fatto al contrario l'antiprogramma anti-Fazio, quello che rappresentava comunque il dissenso del dissenso organizzato? 800240024. Stiamo parlando questa mattina con i due autori dell'ultimo libro scritto su Pasolini, Una lunga incomprensione, saggio Vallecchi, Pasolini tra destra e sinistra, scritto da Adalberto Baldoni e Gianni Borgna. Gianni Borgna, su questa visione di Pasolini della televisione del 72, lei, è possibile, tu puoi fare una previsione cosa sarebbe stato oggi Pasolini vivo con la televisione come oggi? Ma intanto vorrei dire che, anzi, vedo quell'analisi pasoliniana molto attuale invece, perché in fondo la televisione ancora della sua epoca aveva quei tratti fondamentali, perché la televisione ha dei tratti proprio strutturalmente identici da sempre, ma certamente era una televisione molto diversa. Quella di oggi, per certi versi, ancor più si confà alla sua analisi così apocalittica, perché effettivamente la televisione di oggi è un medium, un mezzo di comunicazione assolutamente alienante, insomma, e poi comunque è uno strumento di ottundimento delle coscienze, quello che lui diceva a Biagi, perché Biagi appunto un po' ingenuamente gli controbatteva, ma lei dica quello che vuole, ma il problema non è di dire quello che uno vuole in televisione, il problema è che la televisione, diceva sempre Pasolini, è sempre ex cathedra, cioè quello che viene detto in televisione si pensa sia la verità, non si sa bene perché, al punto che oggi si fanno addirittura i processi penali in televisione, tutte le vicende di questi delitti spesso orrendi capitati in Italia in questi anni si dipanano non nelle aule dei tribunali ma nei vari talk show televisivi, perché si pensa che la verità sia quella televisiva, e questo è il portato di questa visione appunto della televisione come una specie di Vangelo, di verità rivelata. È lì il nucleo dell'accusa pasoliniana di una televisione che in fondo è appunto un medium fortemente alienante. Io credo che questo sia non solo tuttora vero, ma oggi forse più vero di allora. Sì, ma riguardo all'intellettuale, a parte che non condivido tutto quello che hai detto, ma sarebbe un discorso sulla televisione che adesso in questo momento è inutile farlo. Per me la televisione e la vita ormai si sovrappongono talmente che è difficile individuare il punto di caduta e di differenza. È una sovrapposizione però molto apparente, perché la vita reale è una cosa, la televisione è poi una vita virtuale. Sono due cose molto diverse, ma comunque questo è un altro tema che se ti va un giorno lo affrontiamo. Sì, certo, poi adesso dobbiamo parlare. Ecco, quello che mi interessa però, oggi l'intellettuale può turarsi il naso ed entrare dentro, conoscere, cercare di capire e guidare, secondo il suo pensiero, i meccanismi della televisione, o deve mantenersi fuori nel suo impero, nella sua torre d'avorio, e dire che schifo, quanto puzza la televisione, robaccia, e ne sto fuori. Se ne sta fuori, no, chi lo proclamerà intellettuale? Guardi, non è propriamente così. Lo stesso Pasolini faceva quell'analisi della televisione, che secondo me era piuttosto vera e fondata, però poi lui la televisione l'ha anche utilizzato. Lui ha fatto per esempio dei film, dei programmi per la televisione che magari la televisione gli faceva fare e poi non mandava in onda. Erano fantastiche inchieste, sì, sì. Quello stesso Di Biagi che lei ha citato, credo sia del 72, del 70 o del 71, comunque è andato in onda dopo la sua morte, perché Biagi fece quel programma, si chiamava Terza B, facciamo l'appello, in cui tra l'altro ricostruiva la classe liceale di Pasolini. Lui era lì con tutti i suoi compagni di scuola di allora, alcuni anche diventati famosi, non come lui, ma relativamente famosi. E poi quella trasmissione molto bella non fu mandata in onda, sempre a dimostrazione che poi in televisione non è vero, si può dire tutto quello che si vuole, tant'è che andò in onda soltanto dopo la sua morte, perché fu un omaggio che la televisione fece a Pasolini dopo la morte. Diventava un coccodrillo. Poi diventa. Lui ha fatto per esempio gli appunti per una Orestiade africana, che è un bellissimo film documentario fatto per la televisione, anch'esso andato in onda molto dopo. Cioè, voglio dire, la televisione poi magari lo censurava, però gli dava anche la possibilità di usarla, e lui la usava, perché non è che lui non la usava. Non credo che avrebbe partecipato con Fazio al programma di Fazio, per esempio, con quelle caratteristiche, ma certamente avrebbe continuato a usare la televisione a modo suo, perché lui, così come ha usato il cinema, che comunque è un grande medium popolare, se si può, un grande mezzo di comunicazione anche popolare, perché il cinema allora in particolare era visto da tantissima gente. Adesso sentiamo un attimo meno. Bogna, scusi, sentiamo un attimo Roberto, che è molto che attende. Roberto è un ascoltatore. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Ma io ho seguito con interesse la trasmissione. Io penso che il problema è su quale criterio si stabilisce che oggi uno è intellettuale. La domanda è giusta, chi proclama l'intellettuale? Il successo, il furor di piazza, il furor di popolo, la presenza in televisione, visto che oggi dobbiamo fare i conti? È chiaro che accostando Pasolini e Saviano, un po' questo accostamento un po' fa tremare per certi versi. Sì, fa tremare, ma onestamente, io ci ho pensato a lungo e me ne prendo la responsabilità. Trova altre persone che in questo momento, al di là delle simpatie e antipatie, non ho nessun pregiudizio e nessun amore spassionato, però l'identificazione comunque nella figura dell'intellettuale trova che possa avere altre forme o altre persone come primo pensiero che viene in mente. Ma io penso di sì, secondo me sicuramente sì. Il problema è il mezzo televisivo. Il mezzo televisivo costruisce dei mostriciattoli, e questi mostriciattoli, a seconda dei casi, si possono chiamare Saviano o con altri nomi. Però è chiaro che Pasolini era un intellettuale e tutti lo riconoscevano come intellettuale. Ancora oggi se si parla di Pasolini tutti sono interessati, sia, quindi, Roberto, sia di destra che sia di sinistra. Vediamo di capire assieme. Oggi l'intellettuale non lo costruisce più la fortuna letteraria, cioè libri che vende e, diciamo, il consenso e il dibattito che suscita. La visibilità, cioè essere visto tante volte, le situazioni al limite della norma, l'essere perseguitato, avere detto cose che gli altri non dicono, l'estrema facilità comunque di parlare linguaggi comprensibili a tutti, cos'è che oggi determina l'intellettuale secondo lei? Secondo me l'intellettuale oggi viene quasi, mi viene il dubbio che venga determinato da una certa classe politica che manovra certi strumenti quali possono essere la televisione. Ma scusi, la classe politica in questo momento dominante, che intellettuale starebbe esprimendo? Non certo Saviano, che è uno di quelli che sta facendo le pulci in maniera più violenta. Ma forse mi sembra che ci sia anche una parte della stampa e della televisione che sta attaccando il governo, quindi perché non costruire una sorta di guerriero anti... Ma chi è? Lo vede lei? Lo vede lei? Mi sembra che la trasmissione di Saviano sia emblematica di questo. Va bene. Ci lasciamo per un istante per dare la linea all'informazione del traffico. Riprendiamo fra un minuto. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia, e allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. 800240024, abbiamo sentito Pasolini che parla della civiltà dei consumi, sull'omologazione, sul consumismo, e temi attuali al tempo in cui ne parlava, attuali come argomento di dibattito, di discussione per impugnare appunto lo stendardo del dissenso, argomenti di cui ancora oggi si parla ma in maniera molto più rilassata e anche a volte meno ideologica. Questa mattina parlavamo di Pasolini perché ci piaceva cercare di capire se oggi mai potesse prodursi una figura di intellettuale che in qualche maniera potesse richiamare l'idea e il senso che ha avuto Pasolini nella storia del nostro paese. Ne parliamo con il libro in mano, Una lunga incomprensione, Pasolini tra destra e sinistra, edito da Vallecchi, scritto da Adalberto Baldoni e Gianni Borgna. Adalberto Baldoni, non l'ho detto prima, è anche lui un saggista, uno scrittore, un giornalista, documentarista, ha scritto vari saggi sulla destra, in particolare destra, storia della destra dal postfascismo al popolo della libertà, edito da Vallecchi. Adalberto Baldoni, io non riesco ancora bene a identificare se mai possa prodursi dal sistema incrociato oggi dei media, del consenso, del dissenso, della politica, del potere, dell'antipotere, qualcosa che possa assomigliare alla figura di Pasolini. Ma io innanzitutto entro nella precedente discussione che avete fatto, ma io il confronto, se confronto si vuole fare tra Saviano e Pasolini, è un confronto improprio. Saviano è uno scrittore. L'ho premesso che era improprio, dico per oggi, se io volessi avere un indicatore generale della conoscenza, del consenso e del dissenso, ma, via dicendo. No, ecco appunto, dico, la figura di Pasolini non dimentichiamo che non solo è stato scrittore, ma è stato anche regista, è stato un grande poeta, quindi è un intellettuale tutto tondo, ecco, diciamo così. Ma è era già nella premessa, credimi, non è che li voglio paragonare, ma dico oggi se mi guardo intorno e leggo qualcuno che può suscitare ancora polemiche, poi quanto sì, le polemiche... È desolante, no, hai perfettamente ragione, è desolante. È desolante, ma è così però. È certo, è un orizzonte veramente desolante, adesso io non lo dico per esempio... E guarda che anche Saviano gli fanno l'occhiolino sia da destra che da sinistra. Sì, ma lo so, basta vedere... E i fini anni scorrere le cronache, io leggo tutti i giornali, tra cui anche il Secolo d'Italia inneggia Saviano, ecco, dicono, e quindi ecco, diciamo è un po' il collante, lo tirano per la giacchetta, però sì. Secondo me l'intellettuale è quello che lascia il segno, che lancia dei messaggi, ma immaginiamo quello che ha lanciato sempre Pasolini. Ecco, io prima stavate parlando, Borgna stava parlando dei film. Ma che cosa ha prodotto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che è un capolavoro unico sulla figura di Gesù Cristo? In quel momento anche il Partito Comunista, che criticava sempre Pasolini, si arrestò, anche perché in quel momento il Vaticano, la Chiesa esaltava quest'opera, no? Senti Bandoni, come ha fatto Borgna? Mi dai una retrospettiva autobiografica? Io vedo, sto leggendo in quarta di copertina autobiografia, tu hai iniziato la tua attività politica nella Giovane Italia, quindi nella percezione degli studenti di Valle Giulia o di chi è venuto dopo eri un fascio. Come vedevi Pasolini ai tuoi tempi? Beh, io l'ho combattuto. Se tu avrai l'amabilità di leggere specialmente le prime pagine del libro, io a un certo punto dopo ho fatto autocritica e sono stato anzi l'iniziatore di un nuovo percorso all'interno della destra nei confronti di Pasolini. Io sono stato la persona che ha organizzato delle manifestazioni anche violente nei confronti di Pasolini alle prime cinematografiche quando Pasolini dava queste, mi ricordo Mamma Roma o Una vita violenta, quando dava queste prime cinematografiche io che ero uno dei leader massimi della Giovane Italia organizzavo delle manifestazioni di dissenso nei confronti di Pasolini. Perché come veniva visto? Come un'immagine delle terre del paese? Sì, era il male. Pasolini, io ricordo, c'era un diario Balilla che l'autore sicuramente era stato Almirante nel 1966, dove Pasolini, erano parole proprio di Almirante, non firmato, ma insomma l'autore era lui, che diceva Pasolini era paragonabile a Stalin e Tito, ecco, per dire come si vedeva. Poi non io ricordo anche una cosa che oggi non fa onore a nessuno: quando fu ucciso Pasolini, negli ambienti diciamo non di sinistra ci si dava di gomito, si facevano le battute, ci ridacchiavano sopra sulla maniera non proprio dal punto di vista del pensiero della destra onorevole in cui era morto. Questo va anche detto oggi. Certo, a me per esempio fece molto male, io allora ero capo servizio interni al Secolo d'Italia, allora purtroppo c'erano gli anni di piombo, per cui questa morte di Pasolini, non dico che passò inosservata, ma passò in secondo piano, anche perché mi sembra che due giorni prima era stato ucciso un ragazzo di 15 anni davanti alla sezione Prenestino da un comando dell'ultrasinistra, per cui lì al giornale si respirava un'aria, si stava in trincea, ecco, un'aria pesante anche per tutti questi omicidi. È difficile farlo capire a chi oggi ha soltanto 17, 18, 20 anni, ma erano anni in cui il morto conosciuto nella cerchia degli amici, dei conoscenti, era veramente all'ordine del giorno. No, ecco, sto dicendo questo, però si discusse anche perché io, essendo capo servizi interni, dovevo a un certo punto dico, guardate, è morto Pasolini, è stato ucciso, eccetera. E ci fu una grossa, non dico vivace discussione all'interno del giornale, c'era chi diceva, vabbè, ma quello è un frocio, è morto un frocio, ecco, il comunista e frocio. Era quello che volevo dire poco fa, la frase che girava era questa, dice, gli hanno tappato la bocca e via dicendo. Sentiamo Marcella. Buongiorno. Velocemente, Marcella, che si è... L'analogia che mi viene in mente, io nel 68 sono nata e Pasolini l'ho letto e mi fa una forte analogia con Sciascia. per la visione, la capacità di avere una visione profetica sul futuro, su quello che sarebbe stato il futuro. Mi fa piacere, Marcella, e proprio in conclusione l'ho voluta far parlare perché conferma quello che stiamo dicendo questa mattina. Lei non a caso cita un intellettuale morto, un intellettuale del passato, non gli viene in mente nessuno di quelli viventi, di quelli che hanno spazio, avrebbero spazio e potrebbero dire la loro. Grazie ad Alberto Baldoni, grazie a Gianni Borgna, grazie a quanti hanno partecipato. A domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.